Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. E allora attendiamo l'accensione dei semafori, eccole che arrivano sui motori. 3, 4, 5, allo spegnimento il via e la gran premio d'Ungheria che scatta adesso con Sebastian Vettel che ha un buono spunto, va a proteggergli le spalle subito, quindi Raikkonen si mette alle spalle di Sebastian Vettel con Bottas davanti a lui di Hamilton, Raikkonen che va all'esterno di Sebastian Vettel, la dietro, attenzione, bloccato per la Sauber, va via bene come voleva la Ferrari. Invertite le posizioni, sì. Ordine di scuderia a Valtteri Bottas, in o lungo. Ordine di scuderia. Platealmente, lo ha fatto molto platealmente. Un po' Valtteri secondo me Bottas. Perché anche si veda che l'ho fatto passare. Come dire, io ce l'avevo il passo, ma faccio quello che mi chiede la squadra, ma appena scendo dalla macchina voglio una penna in mano e firmare il rinnovo. Sebastian Vettel respira, curva 14, Sebastian Vettel respira e arriva sul traguardo, Hamilton cede la posizione a Bottas, Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Ungheria, straordinaria prova di forza della Ferrari, con mille problemi in gara, Sebastian Vettel ha mantenuto la leadership con Bottas che passa su Lewis Hamilton e Hamilton che restituisce la posizione. Non era facile, l'ha fatto negli ultimi metri, prova di forza incredibile da parte della Ferrari, torna a fare 1-2 dopo Monaco. Che gara, dai, un'altra bandiera Maranello, vai, grazie, forza Ferrari. Tutti convocati sempre, anche d'estate, siamo sempre qui con voi. Giorgio Drugo, nostro autore, sua maestà Filippo, regia, quale onore. 800240024, riassume tutto il senso di questo weekend. Massimo da Cagliari, che manda un sms addirittura prima dell'inizio della trasmissione, che imprese quelle di Vettel e Paltrinieri, che cazzata quella di Gallinari. Ma dopo una giornata così, io mi limito soltanto a toccare la punizione per Leo Turrini. Poi faccia lei. Ma io sono qui in coda sulla Pero Cormano. C'è una fila di tutti pentiti a proposito di Raikkonen, il santo bevitore, capito? Non te la cavi più, campeggi no, lì. È stato il vero stoico eroe della domenica. Guardate, ieri è successa una cosa incredibile. Come ben sanno i seguaci di Focus Economia su Radio 24, Sergio Marchionne ha una calcolatrice al posto del cuore e piangeva anche lui alla fine. Ti faccio godere un pochino di più se possibile, facendotelo risentire, Marchionne. Sono soddisfattissimo, ma la vera sorpresa per noi è stata Silverstone, l'ultima gara. Quindi c'è stato un grandissimo recupero da parte dei ragazzi. Dove stanno? Hanno fatto un grandissimo lavoro nelle scorse due settimane che si è visto ieri, quindi c'è poco da aggiungere, è una grandissima squadra, si è dimostrata ieri. L'hai messa come suonaria del cellulare, no, questa? Ma no, guarda, no. Allora, alla fine, no. Credo giusto poter dire giustamente, alla fine di un Gran Premio che è stato uno spasmo, un'agonia, perché quel guasto, lo sterzo di Vettel stava minacciando di trasformare una domenica rossa in una ennesima sinfonia argentata, e invece sono stati bravissimi tutti. È stato bravissimo Seb a tenere il volante in quella maniera straordinaria, è stato formidabile Raikkonen che gli ha coperto le spalle rinunciando a vincere, perché non avendo lui guai sulla vettura era nettamente più veloce del compagno. E poi, come ha detto giustamente questo Marchionne dal volto umano, Dobbiamo segnalare che la Ferrari era arrivata in Ungheria un po' con le spalle al muro, no? Non vinceva da due mesi. Alla faccia gli hanno detto, scusami, se arrivi con le spalle al muro e dai questo colpo di coda, bravo, e allora? Bravo, vuol dire che la squadra ha innanzitutto una forza d'animo unica e poi una, diciamo così, capacità di reazione, perché a Budapest Ferrari aveva portato una serie di modifiche drastiche sul monoposto, dal nuovo fondo al diffusore, e hanno funzionato alla grandissima. Guarda, io l'ho detto in tutte le salse, non è che nella storia della Ferrari siano mancate le doppiette, ma questa, per il modo in cui è arrivata, è una delle vittorie più belle nella storia della scuderia. Che effetto possa avere sulla dinamica del campionato, qui in coda sulla Pero Cormano, tra tutti gli altri raiconiani pentiti che mi chiedono scusa, non te lo so dire per una ragione. Guarda, sai che con te sono sempre molto schietto. Dopo la pausa, le piste che ci aspettano, per quanto abbiamo visto finora, sono quasi tutte più adatte alla Mercedes. Ma, dico da un punto di vista tecnico. È così, però. Però attenzione, Budapest aveva un quartiere di nome Modena, disse Leuturini ieri, guarda, come sottolinea, i nostri ascoltatori sono attenti. C'era insomma ieri, come dire, una congiunzione astrale, no? Budapest è diventata provincia di Modena tra la Ferrari e il mio figlioccio Greg Paltrinieri. Appunto. Sembrava tutto studiato, tutto studiato per una celebrazione. Allora, continuando sul ragionamento di prima, la mia fiducia poggia sul fatto che quest'anno abbiamo una Ferrari organizzata in modo tale che sa reagire anche ai momenti, diciamo, difficili, no? E in passato non era così. Se noi prendiamo solo 12 mesi or sono, proprio dopo l'Ungheria, fu il punto più basso della gestione Marchionne arriva bene. Tant'è vero che nelle settimane successive il presidente fece la rivoluzione, modificò completamente il metodo di lavoro, nominò Mattia Binotto direttore tecnico, promosse le risorse interne, i giovani ingegneri italiani. Ecco, abbiamo una squadra che ci crede. Poi dopo occorre essere consapevoli che la Mercedes di Silverstone, per non andare tanto lontano, che non è quella di Budapest, ha un passo che su certe piste fa paura. Sì. Però vediamo, intanto ci godiamo la pausa così, no? Più 14, molto bene, qui è scusa, ma tutti mi chiedono scusa, questi qui, ho capito, vi eravate sbagliati su Raikkonen, va bene, sì, no, ma io sono un uomo generoso, perdono. Offri perdono a piene mani. Ma dai, c'è un passo del Vangelo che dice amate i vostri nemici, è il brano più alto e nobile, hai capito? Secondo me Raikkonen non l'ha mai letto, ma se l'aveva in mente in quei giri quando faceva mangiare la polvere. Adesso la penna è pronta, come abbiamo sentito prima, se non c'è l'inchiostro simpatico, l'inchiostro, ma guarda, è quello anche, vero. Anche su questo, caro gente, ma sinceramente tu, che sei il Tolstoi della radio, no? Ma ti sembra possibile che per giudicare un campione del mondo, perché Raikkonen è un campione del mondo, che spesso anche quest'anno va forte come Vettel in qualifica, talvolta gli è stato anche davanti, io mi debba sentir raccontare che c'era bisogno della prestazione di ieri? Ma parliamo di uno che guida in Formula 1 dal 2001, che è uno dei quattro esseri umani su alcuni miliardi di persone che hanno calpestato il pianeta negli ultimi 40 anni a poter dire di aver vinto il titolo mondiale guidando una Ferrari. Ma per favore! Allora, ditemi, sì, ho capito, mi state scusa, sono qui in coda. Sì, ma io assolvo sì, tutto. Assoluzione a piene mani, Leo Turrini, assoluzione a piene mani. Io l'ho già detto con te in tutte le salse. Se mi dite, è una questione anagrafica, il pilota più vecchio in pista, ma chi no? Se ne frega? Cioè, no, ma io su questo non ho nulla da obiettare, perché la carta d'identità è quella. Vabbè, ma chi, se, ma chi se ne importa, scusami, discutere, Leo. Cioè, discutere il pilota. Stiamo lì a guardare la carta d'identità. No, ma poi guarda, Carlo. È tutto pretestuoso, dai, su. Carlo, questa collaborazione che diventa complicità tra Vettel e Raikkonen, tu hai visto ieri Seb che alla fine è andato subito a dirgli grazie che non mi hai sorpassato anche se eri molto più veloce di me. Ecco, questo è un bonus, un vantaggio per la Ferrari, non gli 80 euro di Renzi, visto che dopo c'è focus economia, che forse la Mercedes non ha, perché quel balletto che abbiamo visto ieri tra Hamilton e Bottas sta a indicare che in caso del grande avversario quantomeno qualcosina scricchiola, perché quando il nero alla fine ti dice sì, umanamente sono fiero del mio gesto, no? Cioè di aver ridato la posizione a Bottas, ma se poi perdo il titolo per 3 punti, ma non credo, Leo, detto, ma non, senti, non credo che in tutta onestà, al di là del muretto, di quel muro, ci siano dei problemi di questo tipo. Fratello mio, ti saluto e ti ringrazio e ti abbraccio. Ma che calciomercato? Io voglio parlare di Paltrinieri, voglio parlare. Beh, notizie qui che Greg, più mi manda i pazzi. Greg mi ha scritto stamattina da Budapest delle parole bellissime, perché lui è il mio figlioccio e io ero veramente anche in ansia per lui. Ti ha scritto? Sì, Paltrinieri stamattina. Ti ha scritto cosa? Beh, insomma, adesso non si può dire, si può anche segreto, dire che le cose che io avevo scritto sui miei giornali sul QN stamattina al suo proposito l'avevano commosso e io gli ho risposto: guarda che tu sembravi la Ferrari della piscina ieri. Troppo facile. Facile, però. Troppo facile. Grand Budapest Hotel, dove sta? Tra Maranello e Carpi, hai capito? siamo qui e ci sì, ho capito, vi scuso tutti, sì, mi eravate sbagliati su Rai, benedizione. Mi offrono tutti il caffè. Sono tutti pentiti, ma va bene, sì. Ciao amico mio, a molto presto. Buon a molto lavoro. Presto, ciao, amico ciao, mio. Ciao Leo Turrini. Allora, traffico, torniamo. Vai! Grazie, forza Ferrari! Tutti convocati. Convocati. Saranno 15, il vantaggio di Gregorio è sempre consistente, lato respirazione dove si può permettere di controllare il ritorno di un avversario che non c'è più, la medaglia d'oro è campione del mondo, Gregorio Paltrinieri ancora una volta come all'Olimpiade, primo re incontrastato dei 1500 stile libero. I'll take it in but don't look down. Una delle mie più sofferte, alla fine è stata una gara molto complicata, però guarda, è stata bella anche questa, diversa dalle altre e, di solito sono abituato a farla più da solo, però è così secondo me che ho dimostrato, insomma, di essere, insomma, più forte di lui e di meritarmela di più, perché avevo un avversario proprio lì fino alla fine, quindi è stato bello. Take it in but don't look down. Dentro questo mondiale sul quale Paltrinieri ha disegnato la cornice d'oro c'è tutto, il senso compiuto di questo mondiale, che c'è tutto, ricambio generazionale, ci sono quelli che non mollano mai, c'è davvero qualunque cosa, ed è un piacere parlare, come ho fatto l'altro giorno con il direttore Giovanni Bruno, aggiungendo il Re Leone Max Rosolino. Buongiorno a entrambi. Ciao. Buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao Massimiliano. Ciao Giovanna. Ciao Giovanna. Dici le cose? Vai tu Giovanna. Le origini napoletane che escono fuori, vedi? No, hai detto tutto te, magnifico, è vero. È un mondiale che mi ha inchiodato davanti al televisore. Intanto complimenti a Tommaso Mecarozzi e le telecronache fatte con Stacchi, perché veramente bellissime. Sì. Mi hanno inchiodato alla poltrona estiva, diciamo così, meraviglioso. Hai detto te giustissimo, c'è cioè quella della nuova generazione, i giovani sorrisi della quadra, bellissimo, è stato un mondiale fantastico. E devo dire, non perché c'è Massimiliano qua che lo adoro, però sono ritornato al 2000, all'Olimpiade di Sydney, quando meravigliosamente noi vedevamo dei ragazzi meravigliosi che vincevano, i Fioravanti, i Rosolino, perfetto, finalmente una bella competizione e siamo stati competitivi. E noi mica li dimentichiamo mai, questi, i ragazzi del 2000, Max. Esatto, esatto. Direi copia e incolla, mi va bene quello che ha detto Giovanni, perfetto. No, la cosa bella veramente, io adesso ho sentito tra una canzone e l'altra che la dichiarazione che diceva Gregorio, finalmente me la sono giocata fino all'ultima vasca, ho avuto un avversario duro e ogni gara è diversa e non è mai uguale alla precedente. Vincere l'Olimpiade ovviamente è una cosa che contraddistingue chi va sull'Olimpo e chi rimane sul pianeta Terra, però il mondiale viene veramente un passetto dopo, vedere da un lato Federica che per 13 anni prende medaglia a ogni mondiale, dall'altra parte Gabriele Detti che insomma finalmente si leva la soddisfazione di raggiungere il gradino più alto, Simona Quadarella ha fatto la maturità ragazzi un mese fa. Io vi chiedo, Max e Giovanni Bruno, vi chiedo, dove è chiaro che non si vuole più la mamma o il papà, non si fa distinzione tra i figli, però dovendo mettere un vostro personale asterisco su una medaglia di questo europeo, di questo mondiale, dove la mettereste? Dove lo mettereste, Max? Ma in realtà io ho una simpatia per Gabriele Detti perché in qualche modo fa parte di una scuderia di vincenti, però fino a 12 mesi fa era uno veramente qualunque. Perciò vederlo trionfare, averla meglio sul suo Young, Paltrinieri, voglio dire, c'era anche Park, mi ha veramente particolarmente emozionato. Poi ovviamente Federica straordinaria, però Detti è stato una... sognava di battermi, guardava le mie gare, perciò non posso che non fare per lui. Direttore, tu dove lo metti l'asterisco? Federica tutta la vita. Federica. Perché ti spiego, Gabriele è un faticatore, quindi mi piace perché tu sai l'amore che io ho per il ciclismo, quindi è un classico pazzistone che attacchi in montagna, Detti. Paltrinieri è l'uomo di classe, perché è il genio, è colui che ragiona sulla gara, è come ieri io avrei massacrato l'ucraino, e staccati, no, però è stata bellissima. Federica perché ha battuto una Ledecky che pochi sanno che non ha mai perso, tutti gli appuntamenti li ha vinti tutti, ha guardato per la prima volta una medaglia diversa, una medaglia d'argento. E quella dell'oro di Federica dopo Rio e soprattutto, secondo me, dopo anche Londra, che aveva preso mazzata a destra e a sinistra, è stata quella del sorriso, della sua rivalutazione, del suo concetto del vivere, del suo concetto del sacrificio, perché si è rimessa in gioco. Tu pensa, sbagliava anche questa gara, l'ha svinta, l'ha stravinta, ha vinto su tutti. E su se stessa è stata una conferma meravigliosa. Tu sai che io sono d'accordo per tutte le ragioni che siamo già detti, insomma, perché il grandissimo campione è quello che è capace di cadere e rialzarsi, e questo è l'anno da Federer in su in giù fino a Federica, per l'appunto. Max, scusate se insisto, ma tu sei stato un enorme nuotatore, ma sei stato anche un grandissimo personaggio, e questo ha fatto del bene a tutto il movimento, perché non ci piacciono quelli che non vogliono apparire, non vogliono comparire, i bravi ragazzi. Io credo che i personaggi servano e abbiano fatto benissimo al movimento del nuoto. No, ma è ovvio, sai, poi la realtà è che ognuno poi ha un'evoluzione. Noi conosciamo, voglio dire, il nuoto tramite Federica, perché ci ha fatto scoprire anche quello che c'è durante l'allenamento. Conosciamo il nuoto da Stakhanovista, perché sono almeno 4-5 anni da Londra che insomma Gregorio speravamo che dovesse prendere la medaglia, e poi tutto è arrivato con gli interessi. Detti è un personaggio, però come ha detto Giovanni, insomma, è un faticatore, però secondo me c'ha molta più classe di quanto uno possa immaginare, perché tecnicamente io stesso, che quando ho vinto io tecnicamente la gara che dove ho fatto paura era il 400, davanti a me c'era Jan Thorpe, perciò passa in secondo piano. Dopo 15 anni, con quel tempo, è ancora al podio. Anche perché lo sappiamo perfettamente che anche Rosolino è un pellegriniade, no? Se mi passi questo orrendo neologismo, cioè anche lui è stato capace di reinventarsi mille volte, quindi sa perfettamente che cosa vuol dire, di che cosa stiamo parlando. Giovanni, la piscina. Massimiliano, io al di là delle vittorie e delle cose, uno che quando vede l'acqua ci si butta, non c'è nulla da fare, rimane campione e rimarrà sempre campione. Poi adesso non perché sta qua, però lui era questa immagine affascinante, la bellezza, eccetto dell'Australia, visto che l'ha vinta a Sydney, le medaglie, le origini sono australiane, le origini napoletane, c'era tutto quanto, e quindi concordo pienamente con te sul fatto del concetto del personaggio. Federico è un personaggio, come Alberto Tomba è un personaggio. La gente in questo momento, se tu dici Pellegrini, sanno chi è, se tu dici Alberto Tomba, sanno chi è. Poi rosicano, sono invidiosi, quindi ti aspettano al varco, no? Però c'è un altro concetto che è bellissimo, la bellezza di Federica, perché Federica è bella. Ieri c'aveva finita la staffetta con le ragazze, con le altre ragazze, eccetera. Tu vedevi questa ragazza tranquilla che cercava di ragionare sulle domande che gli faceva Elisabetta Caporale, eccetera, eccetera, cercava di rispondere in maniera concreta e intelligente. In più tu la vedevi serena, pacata, tranquilla, bella, si è alleggerita, è diventata una specie di sughero, cammina come un siluro, stavolta rimane il punto di riferimento, cioè lei, come tanti altri e come è stato Massimiliano, non essere il punto di riferimento per portare nuovi ragazzi al nuoto e nuove persone che ci devono dare quella famosa linfa. Guarda sti madonna di giapponesi come in funzione dell'Olimpiade 2020. Non voglio ritornare sul concetto del miraggio nostro, però se tu vedi gli inglesi che cosa hanno costruito, c'era un signore che ha fatto la rana ieri nella staffetta, che, cioè, secondo me, se io me lo compro e me lo porto dietro un gommone risparmio il motore, perché gli metti questo dietro vola a rana. Questi hanno costruito come stanno costruendo i giapponesi e come gli americani si sono solidificati, certo, alla stragrande, chiaramente. Punto. Ma io volevo togliere un'ultima curiosità con Massimiliano. Sappiamo che Federica ha ricominciato tante volte a vincere dopo essere caduta, cambiando allenatore, ma in sostanza uno si domanda, ma che cosa può risolvere un cambio di allenatore per un dottore? Cosa può significare fino in fondo? Io penso una cosa: se tu hai fiducia in qualcuno, sei già a metà del successo. Se tu non credi in qualcosa, hai già fallito. Cioè, non ce n'è. È come la differenza tra, diciamo, avere il coraggio l'ultimo 25 di dire io ci provo, piuttosto arrivo quarta, è quella che contraddistingue il campione. Federica ha avuto, diciamo, vari allenatori, da Max Di Mito a Castagnetti, appunto a Claudio Rossetto per soltanto una stagione, anche Stefano Morini. Però devo dire la verità, levato Castagnetti, che in effetti credo che l'abbia veramente l'ha fatta diventare una macchina da guerra, da guerra. Matteo Giunta ha veramente il pregio e veramente deve prendere tutti i benefici. Sì, veramente. Inquadrare Federica a 360 gradi, dalla preparazione a secco a quella che comunque è la prevenzione, e veramente penso che un atleta non possa volere più di così, perché hanno una gestione e non è facile, perché Federica non è facile da gestire, però avevano deciso di fare l'altura, l'hanno fatta. Sono cose che si sentono, più che non è solo questione di nuoto, sono cose che si sentono. Max, ti abbraccio grazie. Forte, grazie Massimiliano Rosolino. Dir, estate meravigliosa questa, alla faccia degli anni dispari. E poi cominciano anche i mondiali di atleti, meraviglioso. Lascia stare che rimane comunque una ferita aperta, il movimento atletico dell'atletica italiana rimane e rimarrà una ferita aperta, speriamo in una generazione tipo quella dei nuotatori, Giovanni. Tipo quella dei nuotatori. Però ce le godiamo, dai, che viva queste cose di sport meravigliose. Ti assicuro, ieri tra Ferrari, la Pellegrini e tutto il resto, cioè tutti i mondiali di nuoto, fantastico. Veramente ti rasserena una delle giornate del genere. Grazie direttore, a prestissimo, un abbraccio forte, grazie a Giovanni Bruno. Dunque adesso ci fermiamo ovviamente per la borsa, 800 24 00 24 è il numero verde, se volete intervenire qui in diretta sempre. E poi apriamo altri capitoli, se volete calcistici, oggi con le voci, ma ci prendiamo anche una bella boccata di ossigeno sui discorsi calcistici. E poi arriviamo a quello che manda i pazzi, cioè Gallinari e quel pugno. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Oh. Hey. questo è stato un buon test contro una avversaria del campionato che è la Roma. Nel frattempo abbiamo giocato molto bene tecnicamente, normale che c'è da migliorare proprio la fase difensiva, però è la condizione, perché il momento è questo, però una prima parte di stagione deve essere stata fatta bene, soprattutto perché ritorniamo in Italia senza infortuni e dal 3 mattina quando riprenderemo ci prepareremo in discesa per la Supercoppa e per il campionato. Come è andata la gara? Siamo partiti molto bene, avendo un paio di palle gol importanti, sapendo che la Juve era molto pericolosa in ripartenza. Dopo abbiamo abbassato un pochino il baricentro, siamo stati più bravi a essere aggressivi per un periodo e quello che mi è piaciuto meno poi nel finale, specialmente negli ultimi 15-20 minuti, che abbiamo giocato pochissimo in verticale. Questo ha permesso sempre alla Juve di potersi riposizionare con facilità e ripartirci con le loro qualità. Vabbè, siamo ovviamente all'amichevole, pur di prestigio sotto l'ombrellone. Ieri appunto Juventus-Roma 1-1, Mandzukic e Dzeko, poi rigori che hanno premiato la Juventus, ma adesso è questione solo di attesa di ciò che arriverà, con ovviamente gli occhi sempre fissi sul solito mercato che sta trasportando una vagonata di denari. Avete sentito anche prima nel GR, è la notizia di questi giorni, un bastimento carico, ma davvero carico da affondare, di denari verso Neymar. Dunque, già che siamo in argomento, c'è Buffon, abbiamo sentito ovviamente Allegri e Di Francesco. Buffon, sicuramente quest'anno sarà molto più difficile, perché molte squadre, Milan, Roma, Napoli e anche Inter, si sono rinforzate. Ma la Juve crede molto in se stessa, nella propria forza e nei valori che l'hanno portata a vincere, e quindi pensiamo di poter fare ancora bene. Poi c'è chi torna dagli States, chi torna dalla Cina con 3 vittorie confortanti, è l'Inter di Spalletti. Hanno giocato da squadra, si sono comportati da squadra, hanno avuto delle soddisfazioni da squadra, perché al di là delle vittorie la palla in determinati momenti delle partite è viaggiata a velocità alta, avendo qualità e anche facendo dei bellissimi gol, per cui questo fa crescere quella che è la voglia di Inter a tutti. E quindi abbiamo sentito un po' di riflessi, un po' di opinioni. Massimiliano da Bologna, un ascoltatore, 800 24 0024, il numero verde. Buongiorno. Buongiorno Genta. Io sono un tifoso della Juventus. Sì. Premetto che così, prima di fare la domanda, volevo spezzare una lancia per l'episodio di Gallinari, perché è qualcosa di incredibile. Io non so nel calcio se succede una cosa così, probabilmente si ferma il paese. Non è questione di fermarsi il paese, è questione che questa stella nera che accompagna Gallinari e il suo rapporto con la nazionale è qualcosa che ne va al di là dell'immaginabile, perché puoi dare un pugno a uno, spaccarti di metà carpa e perdere l'europeo. Voglio dire, sappiamo che il Gallo non è tipo da queste cose, probabilmente deve fare un po' di sacco, però santa polenta, ci vuole proprio tutta la rogna del mondo. Comunque la mia domanda è questa, io voglio andare un po' concorrente, visto che per molti juventini Marotta e Paratici sono una specie di mecca. Io ogni tanto, secondo me, hanno dei blackout clamorosi, perché praticamente noi quest'anno abbiamo rescisso contratto di Dani Alves, che probabilmente con qualche milione di euro a qualcuno l'avremmo venduto, visto che l'ha preso una squadra che ne sta per spendere 220. Ma soprattutto mi chiedo una cosa: ho guardato in TV le partite in America, il discorso è che se Allegri continua a giocare col 4-2-3-1 di centrocampisti, ne abbiamo una valangata. Non capisco perché dobbiamo andare a cercare l'ennesimo centrocampista per praticamente veramente dichiarare Marchisio un panchinaro, e non andare a trovare il sostituto del miglior difensore che comunque avevamo. Quindi non capisco perché non ci concentriamo. Cioè, lei si riferisce ovviamente a Bonucci, a sostituto, ma guarda, io le dico, alla Juventus nulla accade per caso, la Juventus è il regno della programmazione. E dunque io sarei tutto sommato piuttosto tranquillo fossi juventino. Poi la perdita di Bonucci, chiaro, eccellente giocatore, eccetera eccetera, ma io sono pronto a scommettere che la Juventus non soffrirà le pene dell'inferno per questa dipartita di Bonucci. Allora, io ho scoperto delle cose a proposito piccanti che adesso vado a rivelare, a proposito di Tali, Bortolotti e Vavassori. Stefano Melocro, buongiorno. Ah, ciao, buongiorno Carlo. Anche tu hai scoperto cose strane. Beh, vabbè, io le ho vissute sulla mia pelle, cose piccanti con Bortolotti e Vavassori. Mai avrei immaginato che la mia vita sarebbe stata segnata da Bortolotti e Vavassori. No, per riassunto dei capitoli precedenti, c'è stato il debutto del mio amico Stefano Melocro tra i professionisti a Cortina in un torneo ATP. Giocava il doppio, ha giocato contro questi due disgraziati, è finita 6-0, 6-1, un game l'abbiamo vinto, poi gli abbiamo regalato la partita, giusto? No, è successo, io giocavo in coppia, va detto, con Alessandro Giannessi, fresco di miglior classifica ATP, numero 84. E vabbè, era evidentemente una cosa, ovviamente noi ci abbiamo scherzato e riso anche con te la settimana scorsa, ma era ovviamente una cosa fatta così, diciamo, a livello tra il promozionale e il fantozziano, no? Cioè, io facevo fantozzi e volevamo fare un po' di creare una piccola notizia. E tutto bene, tutto bello, tutte le premesse carine, tutti simpatici. E però poi c'è stato un problema che era l'ultimo problema, credimi, a cui avrei mai pensato. Cioè, quando questi sono entrati in campo, hanno giocato praticamente al 100% dall'inizio alla fine. È così che si fa. Tu hai giocato naturalmente con la sinistra per non umiliarli, giusto? Ma no, io ero lì, poverino, ero parte di un film che non avevo scritto io, capito? Cioè, io, no, smettila di sminuirti in questo modo, Melocro, no, è un eccellente tennista, ragazzi. Io tu sei mio amico, io ti voglio bene. No, ma io ero stato all'Arbor quando Paolo Maldini ha fatto la stessa cosa, no? Quando aveva fatto il suo esordio un mesetto fa, giocando il doppio. E insomma, gli avversari, peraltro molto più quotati dei miei, avevano avuto un po' di carineria, avevano fatto in modo di, capito? Cioè, un tennista sa come fare se vuole farti tirare quattro palle di là. Ecco, a me questo non è successo, cioè, mi hanno squartato. E hanno fatto bene, perché è così che si onora l'avversario, tu sai perfettamente, vero, no? È vero. Il prossimo torneo fai gli US Open, no? Prossimo torneo faccio l'open del mio condominio. L'open del tuo condominio. Mi iscrivo al mio condominio. Però voglio dire, c'è chi tiene alti i colori del nostro tennis. Perché so Fognini, visto, appunto, vinto. Anche di questo volevo parlare. Ha vinto il primo torneo da papà. Appartiene anche lui alla razza dei pellegriniadi, no? Di quelli che comunque sono capaci di rinascere più e più volte. È quinto torneo ATP come Barazzutti, insomma, molla niente. Ma guarda, io ti dico una cosa, Fognini, pur con i suoi alti e bassi che ben conosciamo, pur con il suo carattere particolare, con le racchette lanciate, tutto quello che vuoi, è di gran lunga il giocatore italiano più forte che noi abbiamo avuto dopo Panatta. Dopo l'epoca Panatta, dopo Panatta Barazzutti. Sì. Per cui teniamocelo stretto, perché molto spesso capita di sentire critiche, quello che vuoi, però si sappia che comunque il numero 13 del mondo, come è stato lui, non è stato più nessuno, dopo Panatta e Barazzutti e Bertolucci. E insomma, auguriamoci che giochi ancora a lungo, perché comunque come lui non ce ne sono. Certo. Stefano, io ti ringrazio, ci sentiamo presto. Grazie Carlo. A te un abbraccio, al tennista professionista Stefano Melocro. Giulio da Bologna invece è un ascoltatore professionista e ben gradito. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. La chiamavo per quello che lei ha detto venerdì rispetto alle dichiarazioni di Pallotta. Sì. Ha incarnato il peggio di questo paese nella sua risposta. Pallotta si faccia gli affari suoi. Così. Ma chi? Lei. La sintesi del suo intervento è stato: Pallotta sgradito, sgradevole, si faccia gli affari suoi, guardi a casa sua prima di parlare di... Guardi, per me ognuno è libero. Indipendentemente da quello che ha fatto, che Pallotta abbia ragione o meno, non entro nemmeno nel merito. Il suo atteggiamento è stato orrendo. Mio? Orrendo. E sì, è davvero il peggio che del conformismo di questo paese. Guardatevi in casa vostra e fate degli affari. No, buongiorno. Ringrazio. Ma perché va via? No, sono qui, se vuole. No, ma non mi sembra di non aver detto una cosa del genere, semplicemente questo. Cioè, ognuno è liberissimo di dire quello che vuole. Mi domando perché Pallotta l'abbia fatto, se vuole la mia. Non è stato il massimo dell'eleganza, ma ben vengano gli atteggiamenti anticonformisti e ben venga chi se può e vuole sradicare le magagne di questo paese. Semplicemente bisogna fare attenzione, perché Giulio, lei lo sa meglio di me, uno dei problemi veri di questo paese sono i processi sulla pubblica piazza. Poi non aggiungo altro, insomma, non stigmatizzo certamente le dichiarazioni di Pallotta, ci mancherebbe, non ho detto questo. Non lo penso. L'ho detto. Allora mettiamo un cappello su questo. L'ho detto, pazienza. Dico sempre quello che penso e sono libero. Giuseppe da Taranto, dica. Buongiorno gente. Buongiorno. Il mio intervento riguarda, devo tornare sul Gran Premio di Formula 1 di ieri. Volevo solo porre la sua attenzione in questo particolare. Sì. Quando hanno richiamato Sebastian Vettel per il cambio degli pneumatici, è passato in testa Raikkonen, il quale ha staccato un primo giro con tempi eccezionali, stando a quello che diceva il cronista. Subito dopo hanno richiamato anche Raikkonen. Non ritiene lei che lasciarlo in pista a proseguire ancora con un po' di giri e avrebbe guadagnato ulteriori secondi o decimi di vantaggio, Giuseppe, questo avrebbe garantito alla scuderia maggiori possibilità di vittoria, a prescindere dal fatto che, laddove avessero voluto, potevano sempre far fare poi il sorpasso a Vettel. Ma Giuseppe, mi sembra che non ci sia nulla da dire, cioè meglio di così non si poteva fare, quindi non saprei darle una risposta, una lettura, tenga a farlo proseguire, non farlo proseguire. Cioè, secondo me è stato tutto perfetto, cioè il giorno perfetto della Ferrari, e quindi non starei tanto a disquisire su strategie di una corsa dominata e vinta con una doppietta di questo tipo. Di conseguenza, io sto con Leo Turrini, come sapete, io sono raikkoniano, e insomma, certamente non la conferma non è stata definita dalla prestazione di ieri né dalle ultime corse. Raikkonen merita e meritava già prima questa riconferma che arriverà. Ci fermiamo per il traffico, ma siamo qui 800 24 00 24, e torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Tutti convocati. Sto giocando proprio in questo momento, guarda caso, quel pugno di gallinare a Koch olandese, ma vabbè, da pazzi, tra poco ne parliamo con un grande ospite. Enrico, dalla provincia di Bari, buongiorno. Che mi dice? Allora, io avevo solo un dubbio, una considerazione da fare con lei, ma all'Inter serve veramente il top player, cioè fa una competizione, una squadra più o meno confermata rispetto all'anno scorso, e ci sono dei giocatori avanti, che poi dove si cerca sempre questo benedetto top player, che effettivamente stanno facendo un buon precampionato, perché non dar loro fiducia, considerato, ripeto, che non c'è nessuna competizione estera da fare, quindi tutto sommato Chievo piuttosto che Spal sono avversari alla portata di Eder e Jovetic. Sì, no, ma serve il giocatore da mettere in vetrina, serve certo anche sia funzionale ovviamente, ma questa neanche da dire che sia funzionale al progetto di Spalletti, però il giocatore da mettere in vetrina, il giocatore simbolo, il giocatore che insomma ti fa un po' da Viagra dopo l'ultima stagione, quello sarebbe ben gradito, no? Io credo a tutti gli interisti. Poi sul fatto che comunque era una buona squadra prima ed è una buona squadra adesso, nonostante il comportamento dell'anno scorso inqualificabile, ma questo l'ho già detto, non mi va di ripeterlo. Spalletti sta facendo la differenza. Possiamo dire che in questo, che il top player è lui, che l'uomo deve mettere in vetrina per il momento è lui. Io credo che da qui alla fine del mercato qualcosa arriverà sul tavolo della regina Inter. Marco Crespi, buongiorno. Buongiorno Carlo. Senti, ma contro le stelle cattive non si può fare niente, no? Cioè Gallinari e la nazionale, questo matrimonio nemmeno i promessi sposi, Marco. Ma penso che il gesto di ieri, riferendosi solo al gesto, è normale. Un grandissimo errore. Ma sì, tutti, Marco, possono fare errori, però credo che poi per essere campioni serve quoziente di responsabilità, e secondo me ieri il Gallo è mancato nel senso di responsabilità, prima di tutto verso se stesso, poi verso la squadra e verso addirittura tutta la gente italiana che ama il basket. Sì, Marco, però quanti ne abbiamo visti? Cioè, adesso io non assolvo nessuno, però quanti ne abbiamo visti? Un cazzotto e una mano rotta per 40 giorni un europeo saltato mi sembra un prezzo, sappiamo bene, eccessivo, no? Poi si è comportato male, che doveva avere più responsabilità, certamente hai ragione tu. Però mi sembra che il prezzo sia non sia giusto. Assolutamente è sfortunato, perché innanzitutto se fai a cazzotti è meglio saper fare a cazzotti, saper fare i pugni e non fare. Bravo, male. Quello che ho detto prima. E però sicuramente è sfortunato. Credo che adesso da questa cosa possa nascere anche qualcosa di completamente diverso, che non deve essere visto completamente negativo per la nazionale. Faccio solo due cose. Uno, sicuramente sta una squadra che dovrà più giocare da squadra allenata, e questo Messina è bravissimo, perché viene a mancare il giocatore di suo più talento. E due, sarà importante che mantenga dentro questa sfortuna, dentro l'errore di un compagno, una sua identità. Quello che viene a mancare è che prima c'era chiarezza in quelle che erano le prime punte e chiarezza in quelli che potevano essere, magari con qualche scelta che poteva essere a sorpresa, anche quelle che erano, diciamo, i cambi. Certo, adesso certo. Tutto viene rimesso in discussione. Certo, comunque è una nazionale che dà buone sensazioni, le dava prima, le dà tuttora, e io credo che le darà a maggior ragione anche in futuro, con Gallinari, senza Gallinari, è chiaro che non si può dire sarà lo stesso, però comunque mi sembra una nazionale che è nata, invece lei si è sottoposta una buona, un'eccellente stella. Sì, sfortuna, non sarà la stessa nazionale, ma questo non vuol dire che sarà una nazionale peggiore. Chi ti piace in questi primi exit poll, come atteggiamento? Io penso che sempre da Tome, con la sua barba, da grande pensatore, dà sempre un contributo di grande serietà. Mi sono piaciuti molto sia Biliga che Abbas, anche quando hanno fatto delle interviste dove parlavano della loro esperienza umana, diciamo, di persone di colore cresciute in un altro paese, e quindi mi sono piaciute molto. C'è una regola addirittura che magari tutti non sanno, che Biliga e Abbas, pur essendo totalmente italiani, non avendo scelto prima di 18 anni la nazionale, e magari nessuno pensava prima di 18 anni poter andare a giocare in nazionale, solo uno dei due potrà essere convocato. Sì. Senti, è curioso anche notare come del gruppo delle superstar americane, quelle che insomma dovevano portarci a una generazione trionfale, è rimasto appunto il barbuto di cui sopra, perché per una ragione o per l'altra, e insomma il tassametro corre, perché non avranno poi ancora tutte ste chance di vincere qualcosa con la nazionale. L'ultimo rimasto Highlander è appunto Gigi D'Antoni. Sì, no, c'è anche Bellinelli, bisogna dire che c'è anche Bellinelli. Sì, Bellinelli. Devo dire che certe volte il passaggio in NBA ha tolto addirittura voglia di giocare in questo momento a Bargnani. Sì. NBA è qualcosa di bello, è sicuramente il basket che è di più alto livello per necessità di qualità di esecuzioni, sicuramente a livello di assumersi responsabilità non è una prova ad ogni volta che scende in campo. Certo, certo. Marco, se poi ci sarà il nodo da sciogliere del nuovo CT, io continuo a pensare che comunque part-time vada benissimo, che comunque debba essere fatta la scelta migliore, più funzionale, il resto sono pippe secondo me. Io penso anche io questo, lo penserei addirittura anche per la nazionale di calcio. Cioè, ma assolutamente, è un evento, ma stai scherzando. Bisogna prendere quello che ti pensa il miglior allenatore per quell'evento, e il miglior allenatore non può essere a full time. Certo, certo. Marco, ti ringrazio. Grazie a te. A presto. Ciao. Keep in touch, Marco Crespi. Allora, altri ascoltatori, 800 24 0024, con grandissimo piacere, Claudio dalla provincia di Padova. Giusto? Sì, buonasera. Buonasera, vacanze niente? No, sto ancora lavorando, mi sono fermato. Sì, uno staccanovista, ma poi si farà il suo bel 2 mesi e mezzo in giro per il mondo, quindi nessun problema. Sulle Dolomiti un pochino. Mica male, buttale via, dica Claudio. Niente, a me, parlando del nuoto dei campionati del mondo, sì, mi è parso strano che uno come lei non abbia sottolineato, secondo me, quella che è la medaglia più bella che abbiamo conquistata, perché le altre sono fantastiche, ma cavate i mostri, sì, c'è stato un personaggio che mi ha toccato, che è chi ha preso il bronzo dai tuffi dall'alto, che sì, è un ragazzo che fa il cameriere, no, ma certo, si allena da solo, viene, appare così all'improvviso, non è conosciuto da nessuno, e si porta a casa un bronzo dei mondiali. Lo sto guardando adesso, guardi, anche qui per pura coincidenza, lo sto vedendo adesso, ma ripeto Claudio, è difficile, è molto difficile, ed è anche soggettivo scegliere, insomma, fare una preferenza tra i figli di questo meraviglioso che questo mondiale ha partorito per l'Italia. Ho chiesto prima, non a caso, a Giovanni Bruno e a Massimiliano Rosolino di mettere un loro personale asterisco, ma ripeto, è una questione totalmente soggettiva. Lei fa benissimo a mettere su asterisco a questa medaglia inaspettata e fantastica, e d'altra parte è un mondiale che ci portiamo dietro per tutta l'estate. Chiudiamo gli occhi, prendiamo il sole e pensiamo a quello che abbiamo visto, e sogniamo quello che vedremo alle prossime Olimpiadi. Aziz, buongiorno. Buongiorno. Piacere. Signora Aziz, allora, vorrei farti i complimenti 3 volte. Ma no. Primo, per il programma. Secondo, grazie, per l'atteggiamento. E terzo, il complimento per come ha trattato quel signore che l'ha criticato. Ma guarda, non c'è nessunissimo problema. Ci sono tanta gente professionale, anzi, come te. Anzi, a me piace molto il dibattito. Anzi, io mi scuso con chi scrive tanti messaggi, però davvero io preferisco parlare di persona, e non c'è alcun problema. Anche perché io non voglio convincere nessuno, non faccio l'imbonitore, non vendo nulla, semplicemente sono libero di esprimere le mie opinioni, e voi siete liberi di esprimere le vostre opinioni e di tenervele e di comunicarle, e magari di insegnarmi qualcosa, e vi ringrazio. Aziz, dica. Sono corretta e giusta, senza critiche, senza brutte parole. Ma che problema c'è? Siamo tutti amici. Dica. Voleva dire qualcosa? No, tutto qua. Volevo solo farti complimenti e rispondere a quel cretino, tra virgolette. Ecco qua ti auguro una giornata, grazie ancora per il programma. Grazie Aziz. No, qua sbaglia invece. Ha fatto benissimo l'ascoltatore di prima a chiamare. Ho apprezzato molto quella telefonata, e spero che altre ne arrivino, mai in modo da discutere, da dibattere, per carità. Chiudiamo qui il programma di oggi, ma domani torniamo alle 14 in diretta, tutti convocati, vi aspetto sempre con Giorgio De Luca, nostro autore, con Filippo Reggi, sei anche domani? E chi lo sa, chi può dirlo? Speriamo, non ci vediamo quasi mai. Filippo Reggi in regia. Grazie a tutti, ciao! Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!